Molti aspetti della nostra gramma esistenza sono organizzati all'insegna del prima e del dopo. Si tratta di un rapporto con il quale riconduciamo la variabilità e la pericolosità della vita ad un meccanismo ripetitivo più comodo e meno infido. Al mattino io, ecco, per esempio, prima mi lavo i denti e dopo mi faccio la barba. Non voglio dire che se per caso mi sbagliassi e prima mi facessi la barba, non so, ci lascerei la pelle, che so. No, voglio dire che automaticamente l'ordine che cerco di mettere fra queste due attività è quello. Chi lo sa perché, ma è quello. A volte lo si sa benissimo perché, per esempio, prima la carta igienica, poi il bidet, è difficile l'inversione. Un'accurata analisi della mia giornata ha portato alla luce quanto segue. Vabbè, prima le mutande, poi le calze, prima le calze, poi la camicia, prima la gamba sinistra, dopo la destra, prima il tè, poi il miele, prima il miele, poi il biscottino e 5 cereali, prima il tè, miele, biscottino e dopo la spremuta di agrume, prima la sciarpa, dopo il paletò, prima le cose più fastidiose, dopo le più neutrali, che è una variante di prima il dovere, dopo il piacere, insomma, modello dulcis in fundo, avvertendo tuttavia che spesso mi fermo al primo, prima l'acqua, dopo il vino, e così via, anteponendo e posponendo. A pensarci, un regolario più implicito che esplicito di questo tipo governa quasi tutti i momenti della nostra vita, della nostra vita di relazione o solitaria che sia. Nella più elementare interazione sociale, in un incontro per la strada, nella transazione commerciale in un negozio, nella programmazione dei propri movimenti, perfino quando si fa l'amore, c'è un prima ed un dopo cui obbediamo solerti. In qualche pagina introvabile della nostra storia collettiva è deciso, sancito e scritto, che un segmento debba avvenire prima dell'altro, prima lo sguardo, dopo la mano, prima come stai, dopo ti ricordi, prima il denaro, dopo lo scontrino, prima lo bacio lì e solo dopo lo bacio là. Se putto a caso lo bacio prima là, chissà cosa non succede. Un intero castello di credenze, opinioni, certezze sedimentate dalla notte dei tempi crolla. Se sbagli una mossa, sei finito. Le cose stanno così anche al mero livello linguistico. Nel riferire una notizia, per esempio, ci sono cose che devi dire prima di altre. In molti casi prima il contesto e dopo l'evento. In altri il contesto non è necessario, nel senso che chi riferisce la notizia ritiene che l'evento mantenga il medesimo significato in qualsiasi contesto possa essere accaduto. Il prima e il dopo non solo è governato da regole grammaticali e sintattiche, ma anche da una logica di ordine superiore che in qualche modo dipende dai processi di valorizzazione che stanno a monte di ogni nostro discorso o racconto. Di quanto sia vincolante il rapporto di successione, beh, ci se ne rende conto facilmente se si riflette sulla natura di una barzelletta particolarmente divertente, no? A volte basta invertire l'ordine di certi elementi nel racconto che il suo effetto sparisce. Tutta vincoli però la nostra vita non è. Diciamo che senza rischiare l'anatema dell'istituzione sociale si gode anche di un margine piuttosto ristretto, in verità, di un margine di libertà. Che so, per esempio, ci si può infilare le mutande prima con la gamba destra o prima con la gamba sinistra senza che nessuno almeno per il momento dica niente, il che è già una bella soddisfazione. In questi casi si rinvia alle differenze tipologiche, no? C'è pronto chi tirerebbe in ballo la dominanza emisferica del soggetto, tipo è mancino ed estrorso, oppure il sesso, l'infanzia infelice o le convinzioni religiose. Il rapporto di prima-dopo, ecco, come tutti i rapporti, può investire che sia ed essere fatto risalire a che sia. Un esempio curioso può essere quello di una ricerca scientifica si fa per dire, compiuta recentemente all'Università di San Diego, dove in termini di prima e di dopo è stato analizzato il tragico rapporto che può essere istituito tra l'evento della propria morte e quello del proprio compleanno. Ci sarebbe, insomma, chi si aggrappa con le unghie e coi denti alla vita per superare l'ostacolo del compleanno e chi invece, come lo vede prossimo, molla i pappafichi e ci resta secco. Chi la propria morte la preferisce dopo e chi la preferisce prima. Ovvio che si tratti di scelte, per modo di dire, del tutto inconsapevoli e conseguenti ad un meccanismo, diciamo così, che rimane misterioso anche alla fantasiosa lungimiranza dei medici americani. Fin qui un certo aspetto della cosa è comprensibile. Credo sia esperienza comune l'investimento mentale con il quale ci si rivolge ad un certo risultato da ottenersi, no? Un viaggio lungo e difficile, per esempio, registra l'incidente più spesso nel tratto conclusivo che nel tratto iniziale. Una spiegazione potrebbe consistere nel fatto che in certi casi la tensione mentale diminuisce allorché il risultato sembra acquisito. Come la domanda a cui lo studente non sa rispondere è quella che gli si rivolge dopo che lui ha avuto la percezione di aver superato l'esame. Così il poco prima e il poco dopo di un compleanno, per il malato o l'anziano, possono diventare momenti adatti per l'incidente definitivo. Poco spiegabile dei risultati ottenuti dalla ricerca americana è la tipologizzazione della differenza. A lasciarci le penne prima del compleanno sarebbero i maschietti e dopo del compleanno le femminucce. E poco credibile e un po' offensivo è l'argomento psicosociologico cui fanno risalire questa differenza. Per i medici americani i maschietti vedrebbero nei compleanni una notevole seccatura, il momento di bilanci per lo più in irrimediabile passivo, mentre le femminucce nei compleanni vedrebbero soltanto il conforto degli affetti pronti per loro. Come se la femmina fosse poco incline all'esame di coscienza, poco dotata per capire il fallimento di tutti, compreso il proprio, e vivesse soltanto fra gli spari dei tappi di champagne, gli ullallà e i convenevoli cento di questi giorni, capace addirittura di mettere prima il compleanno e dopo, e soltanto dopo, la vita. Politico.